Giulio. I sogni aiutano a vivere o la vita è un sogno? Insomma, non so la risposta quella giusta, ma è una cosa così. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La cosa più importante di oggi è il segnale che abbiamo dato ad inizio partita, di una squadra che voleva cancellare comunque la giornata storta di sabato e che ha tanta voglia di crescere, di migliorare e di vincere ancora. Pirola si complica ancora la vita sull'attacco di Dzeko, attenzione, calcio di rigore, parte Dzeko, la doppietta di Dzeko, la Roma ribalta con il bosniaco. Nel primo tempo si sono buttate via delle occasioni importanti, nel secondo tempo, dopo che siamo riusciti a fare questo gran gol con Edin Dzeko, la squadra si è sciolta, si vedeva che poteva far gol da un momento all'altro, così è stato perché ne ha fatti due molto velocemente. Con 3 contro 3, parte suo cross, deviato, Skorupski anticipato e Mertens porta avanti il Napoli, è 1-0 dopo 6 minuti della ripresa. Abbiamo fatto una buona partita e la palla girava lentamente nel nostro settore sinistro, soprattutto nei primi 20 minuti. Dopo abbiamo fatto una buona partita. Siamo in un momento in cui dobbiamo crescere nella continuità di applicazione e d'attenzione. Ciao ragazzi, oggi siamo in trasferta a Parma, Cibus Tech, grande squadra di Radio 24, da Giorgio De Luca, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato che mi hanno dislocato qui, a Davide Ciocia, a Elena Ligio, se poi a Milano Andrea Roccabelli in regia, Alvise Falzoni in redazione, insomma, super team per questa trasferta parmigiana. Dunque, turno infrasettimanale che dice, beh, poco o nulla perché... Le prime, al di là dell'anticipo Genoa-Milan, le prime tre della classe hanno vinto, come abbiamo sentito in questa introduzione, e quindi Juventus 24, Roma che resta in scia a 22, Napoli a 20 e poi Milan e una grande Lazio che continua a vincere anche se se ne parla davvero poco. Però ovviamente il sorvegliato speciale di questo turno infrasettimanale, sapete anche voi chi era, era l'allenatore dell'Inter, Ronald De Boer. Ieri è arrivato a Milano, lo ha visto vincere sebbene con fatica, ribaltando il risultato con una partita piena di episodi anche buffi di cui poi parleremo. Ciao Evaristo Beccalossi, come stai? ciao, buongiorno a tutti. Bene, dai. Ciao. Bene dai. 3 giorni. Dimmi. Ah, ci sei, vai, no, vai, volevo vai, ricordare il numero verde, ricordalo, sì. Tu 800 24 00 24. E secondo te sono in grado di ricordarmi a memoria subito così al primo colpo? No, la minga così difficile, eh? No. Senti Bec, sì. Allora esame superato e quindi si va avanti con l'allenatore olandese, o fiducia a tempo, oppure tu lo cambieresti, oppure rimetteresti un po' di ordine in una società nella quale non si capisce granché, al di là di qualche ruolo formale come quello di Zanetti o operativo come quello di Ausilio? Ma secondo me bisogna mettere dei punti fermi, ripartendo dalla vittoria di ieri sera, perché veramente Icardi, secondo gol, ha fatto una grande prudenza e come risultato ci siamo. Più bravo, ecco, più bravo a fare gol che a scrivere. Sì, quando non avevamo, no, nel senso che con i gol li sta fare veramente ieri. Sì, ma è stata anche una gran giocatore. Sì. È stata una gara difficile per come ci si è arrivati lì. Insomma, io credo che il potenziale dell'Inter sia quello di per lottare con Napoli e Roma per un posto in Champions League, ritengo sempre la Juve favorita, però bisogna arrivarci che in questo momento o fai sentire la fiducia totale a De Boer, perché le difficoltà abbiamo visto ci sono. La squadra sì, secondo me ha reagito anche bene, però mi è piaciuto anche De Boer in questi tre giorni che se l'è sbrigata da solo. Proprio da solo, conferenza stampa da solo. Esatto, quindi io ho apprezzato molto, anche se poi la società, prima di tutto magari insieme a lui, di dire è la strada giusta per andare a ottenere dei risultati. Quindi però società, allenatore e squadra si devono trovare, devono avere la stessa linea. Quindi nel bene o nel male, hai la fiducia di De Boer, qualsiasi cosa succede De Boer sarà l'allenatore dell'Inter. Bravo, perché, che il problema è a chi spetta il compito di dire questo. Lo dicono dalla... Allora, va bene, tu sei voce in capitolo, certamente ascoltata dall'interismo. Sì, dall'interismo. Dovrebbe arrivare questa voce dalla Cina, dovrebbe arrivare da Toir, che io continuo a definire ex presidente, perché ex presidente, sebbene operativo, aspetta solo di uscire per incassare il grano. E poi vediamo, Ausilio non è il suo mestiere, Zanetti fa più o meno la bandiera. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Io bene, tu? Bene, ciao Beck. Ciao Pier, sì, dopo ieri sera abbastanza bene, però un po' meglio, meglio, però stavamo parlando di queste cose che adesso, cioè io faccio una domanda, speriamo che vada bene a Genova con la Samp, però non si può vivere, secondo me, ogni tre giorni vedere cosa fare in discussione, o si fa un'azione forte, altrimenti diventa un problema. Cioè in questo momento squadra, allenatore e società devono prendere una posizione forte per fare la rincorsa alle prime posizioni. Sì, questo è corretto, però io dico la mia prima del traffico. Sì. Pier, tu hai tempo o devi imbarcarti in aereo? No, io ho tempo, mi stavo ascoltando anche. No, Dilla. Secondo me questo è il momento nel quale sì, e sottolineo, se si crede ancora in De Boer, bisogna dare un segnale molto chiaro ai giocatori, all'ambiente, ai giornalisti, e si dice che si va avanti con De Boer. Il problema è che chi deve dire questo? Beh, ho capito, qualcuno si chiude in una stanza in conference call e poi decidano chi è il più adatto. Lo può dire Zanetti, lo può dire Ausilio, lo può dire Toir, lo può dire chiunque. Ma non è questione di voce come per noi, è questione di autorevolezza. In questo momento non c'è un comandante al timone del vascello dell'Inter. La mia idea, poi ne discutiamo insieme, è che comunque ieri sera, per quanto mi è sembrato di capire, di intuire dalla reazione della squadra, dal body language, come dicono gli americani, è che la squadra comunque ha giocato per Tuir, e questo mi è sembrato un segnale interessante. Ragazzi, state lì, Pardo, Beccalossi, poi arrivo. Quanti gol hai fatto a Nandorsi, Beck? Come, quanti gol? No, sai che non ho giocato contro Nando io. Credo. Non hai giocato contro Nando? Adesso lo chiediamo a lui. Adesso lo chiediamo a lui, che è più lucido. Dopo il traffico glielo chiediamo. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. Palla messa dentro per Icardi, che vuole girarsi, Icardi un po' di spazio, Icardi! Mauro Icardi, 2-1! Io ho sempre pensato con molta fiducia in la squadra, e oggi abbiamo visto che è una buona squadra, però abbiamo sapere che è solo una partita, e sempre dobbiamo dimostrare questa mentalità. Eh sì ragazzi, gli esami non finiscono mai. È chiaro che poi la serata di calcio di ieri, l'infrasettimanale, si è intrecciato con altri eventi ben più gravi, la scossa di terremoto nel centro Italia, sulla quale vi stiamo aggiornando in ogni edizione di GR24. Poi vogliamo fare gli in bocca al lupo a Florenzi, giocatore importantissimo, non solo per la Roma ma per la nazionale italiana. Terza rottura del crociato stagionale di giocatori importanti dopo Milik e Montolivo, Florenzi che verrà operato domani. Ma torniamo sull'Inter. Nando Orsi. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Ma non hai mai giocato contro Beccalossi tu? No, contro il Becca non ho giocato, lo sai. Ma lui è contro vecchio, Becca, Dando, vai il piano, che ti sto sentendo. Ma lo so, ma lo so benissimo. Ma... Ciao, no, non ho avuto di giocare. Mi manca, guarda, io ho giocato fortunatamente con, negli anni con Platini, Socrates, Zico, tutti quanti, Falcà. E mi manca Beccalossi, perché poi c'ho pure d'amico, quindi con cui ho giocato. Che fantastico. Allora, sai cosa facciamo approfittando di Pardo? Organizziamo una bella sfida televisiva, Pardo. Bella. Organizziamo una cosa, non lo so, non so se preferisci il calcio a 5, il calcio a 7 o il beach soccer, però lo organizziamo, Nando Orsi in porta, Beccalossi contro. Ci sto io. Magari. Non si fa prima andare a cena eliminando, esatto. Ma smettila, Evaristo. No, grande. Da quanto tempo non lo vedi, Nando? Da quanto tempo non vedi? No, mica da tanto. Hai visto in che condizioni fisiche è? Cioè, quando giocava era più cicciotto. Ma perché adesso, siccome lui, non so se è presidente di una scuola di calcio con un altro mio amico, ai quali lui non importava niente quando faceva il giocatore, no, perché è passato dall'altra parte. Io l'ho visto ancora poco tempo fa, fighissimo, condizione fisica impeccabile. Esatto. Molto meglio di quando giocava nell'Inter di Bersellini e fece quei due gol nel primo derby cui ho assistito sotto la pioggia, doppietta di Beccalossi, Milan 0, Inter 2. Lasciamo stare. Scusa, ti tolgo perché lì mi ricordo i titoli prima della partita. Campo pesante, ma uno campo pesante, veniva che Dio la mandava. Non dovevo giocare, e pensa, cioè, non dovevo giocare perché diceva che quello bravo tecnicamente sul campo pesante non poteva giocare. Ho fatto due gol, pensa a te. Cioè, sì, me ne ricordo uno abbastanza facile, l'altro meraviglioso. Il primo era normale, il secondo era difficilissimo. Il primo è stato un tocchetto, esatto. Allora parliamo dell'Inter di oggi, anche con Pardo, perché questo è l'argomento del giorno. Io dicevo prima dell'interruzione del traffico. Pierluigi ha detto qualcuno nella società deve dire facciano conference call, decida chi, però qualcuno stia vicino a De Boer se davvero ci credono, perché ogni partita non può essere un esame. Nando Orsi ieri sera ha commentato la gara. Io prima dicevo, io ho avuto la sensazione che l'Inter come squadra, come atteggiamento, stesse con il suo allenatore, e questo mi sembra un punto importante. Allora, il primo tempo dell'Inter è stato un primo tempo molto guardingo, nel senso che non è che ha fatto tanto, però almeno era equilibrata, non ha rischiato, perché solitamente l'Inter in queste ultime partite rischiava anche 3 o 4 occasioni da gol importanti. Invece rimasta lì, non ha rischiato niente, anche se poi in fase difensiva a livello di singoli qualche cosa c'è da registrare. Poi dopo ha fatto il gol fortunoso, nel secondo tempo è rimasta lì, ha creato molte occasioni da gol. Secondo me sì, sta con l'allenatore. È ovvio che però anche lui ha cambiato, perché quando c'è un centrocampo così tecnico, secondo me, la palla la gestisci meglio, gira meglio, poi dopo ha qualche difficoltà in fase interdizione. Però secondo me ha fatto una buona partita. E la cosa giusta, è proprio quella di definitivamente sciogliere i dubbi e dire no, De Boer è l'allenatore, oppure no, perché essere sempre in bilico, la percezione che hai dentro lo spogliatoio è la perdita poi di potere dell'allenatore su certe questioni, certo, quando non sai dell'allenatore se o non c'è. Certo. Pier, cosa ne pensi? Pur avendo visto la partita in TV. Sono d'accordo, cioè ieri è stato un Inter ancora imperfetto, ancora fragile in certi momenti, lo si è visto in stagione del gol dell'1-1. Però è stata una squadra unita che ci ha creduto. Battere il Torino in questo momento non è così banale. Non è semplice, non è banale. Quindi, certo. La vittoria di ieri è una vittoria importante. Ovviamente c'entra molto Icardi, c'entra molto il talento di questo giocatore che secondo me deve essere recuperato pienamente alla causa, senza se, senza ma, fascia di capitano o senza fascia di capitano, ma il leader tecnico di questa squadra. Con la fascia di capitano, perché la fascia. La parte della società sicuramente, però voglio dirti, non è quello il tema. Il tema è che questo giocatore è il leader tecnico della squadra. Non so se sia il leader per i tifosi, non so se sia il leader per il resto dello spogliatoio, ma è il giocatore che vince le partite, che nel calcio ha una certa importanza. E sul resto, la pensavo così prima su De Bull, figuriamoci dopo ieri sera. Io penso che se tu prendi un allenatore così diverso e gli dare un po' di tempo, capisco che l'Inter non ha tempo e quindi forse non era giusto prendere De Bull. Forse vista l'assoluta necessità di risultati subito, che c'è in assoluto, ma c'è soprattutto nell'Inter, visto che sono parecchi anni che non vince, serviva una cosa un po' più pronta. Però una volta che invece fai questa scommessa, ti prendi questa sfida, non lo puoi scaricare dopo 12 partite stagionali. Detto questo, la strada è ancora lunga, magari no, insomma, gli interisti si possono toccare. Insomma, domenica c'è San Pinter sarà un'altra storia se l'Inter perde quella partita con tutti gli scongiuri che può fare Evaristo. Siamo punte a capo, no? Perché da lunedì ricomincia la ricerca. Siamo a Luna Par di nuovo, su e giù dalle giostrine. È bravo, su e giù dalle giostrine. Non si può così, non va bene. Cioè, io sono d'accordo nell'analisi, perché anche prima sentivo i giorni scorsi la lista del supermercato, 8-9 allenatori, traghettatori, i giocatori. Senti, non sono con l'allenatore. Posso chiederti problema... una cosa, Beck? Posso chiederti una cosa? Ma meglio fare la lista del supermercato degli allenatori o sarebbe meglio prendere un plenipotenziario con la fiducia del nuovo gruppo proprietario che non sia Eric Thohir, che come sappiamo è in uscita? Ti faccio il nome di Leonardo, ti faccio quello di Capello, degli altri. Chi vuoi? Lippi, un grande vecchio. No, io non è che voglio nessuno. Beccalossi, Bergomi, qual è la soluzione? No, la soluzione, finché ho De Bull, io cerco di sorreggerlo e faccio un'azione di forza. Qualsiasi cosa succede, De Bull è l'allenatore dell'Inter. Poi nel calcio si sa che siano legati i risultati. Seconda cosa, i giocatori non sono con l'allenatore, e invece secondo me bisogna che anche l'allenatore riesca a far credere ai propri giocatori la sua filosofia di gioco. Non è che se tu vuoi il possesso palla, se tu vuoi il possesso palla, creare le palle gol e essere padroni, i giocatori devono far quello. Se non fanno quello non è perché sono contro l'allenatore, ma magari perché fanno fatica a mettere in pratica quello che vuole De Bull. Quindi la società deve essere attenta a queste cose e poi tiri le conclusioni, non è che ci vuole grandi o no? Non è che ci voglia grande grande fantasia, però dirlo è facile, farlo è un po' più complicato. Sono lì 5 o 6, qualcuno lo dica. E 5 o 6, il problema è che di chi è l'ultima parola? Una volta era di Moratti, adesso di chi è l'ultima parola? Ti ringrazio, Beck. Devo salutare Beccalossi. Ciao, Beck. Dimmi, Nando. No, volevo dire, io ti cito testuali parole: essere un cinese, un indonesiano, un italiano, un inglese è un po' più complicato. Loro non capiscono quello di cui ha bisogno realmente la squadra, quindi un po' di difficoltà ci può essere. Parole di Roberto Mancini oggi. E questo è fondamentale, è importante, perché al di là di tutto ci vuole chi comanda, chi fa intendere chi, delle spiegazioni, è quello che è, e secondo me parte da lì, da in alto, hai capito? Pienamente d'accordo con queste parole. Lì in alto c'è una poltrona vuota, occupata formalmente da un signore che ha preso l'Inter, ha fatto un affare, l'ha venduta e adesso sta per diventare l'ex presidente. Ed è, secondo me questo è il punto di partenza del discorso. Poi non so come la pensate voi, potete dirlo all'800240024 o venendoci a trovare a Cibustec di Parma, dove siamo oggi. Grazie Nando, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao Pier, ti lascio prendere il volo. Volevo dire che innanzitutto c'è notizia. Dimmi. Perché il virgolettato di Mancini mi sembra che spieghi benissimo perché ha deciso di non continuare, perché evidentemente si è reso conto che la confusione societaria stava diventando un problema, al netto del fatto che, io penso che lo stesso Mancini si aspettasse di più dalla sua esperienza nerazzurra di questi ultimi anni, su questo non ci sono dubbi, ma evidentemente in questa stagione ha capito che non c'erano le condizioni e la chiarezza all'interno del club per poter lavorare bene. che mi serve il problema in questo momento. Se si crede, appunto, si devono chiudere in una stanza, fare una bella conference call dai quattro capi del mondo, se sono i quattro capi del mondo, prendo una decisione. Se la decisione è quella di andare avanti con De Boer, Avie Zanetti, che mi sembra assolutamente autorevole, viene in televisione oppure la società fa un comunicato e conferma la fiducia incondizionata a De Boer per farlo lavorare bene. Se questa è l'idea, perché è chiaro che quest'uomo oggi è esposto ai 420, per cui se decidi che è lui, ti devi dare fiducia. Se invece pensi che non è lui, allora lo puoi cambi. Anche fare un'altra scelta, per carità. Certo, certamente. Grazie Pier. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Andiamo con la borsa, torniamo subito dopo. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Rieccoci. Tutti convocati. Rieccoci, tutti convocati, anche gli ascoltatori 800240024, ricordo il nuovo claim di Radio 24, liberi di fare. Di fare cosa? Di fare sport, certamente, ed è può essere un consiglio. Essere liberi anche di telefonare a questo programma per dire la vostra, come hanno fatto Samuele e Giorgio. Buongiorno Samuele. Ciao. Dimmela. Allora, niente, io sono il promoter, diciamo così, della petizione che ho fatto per Frank De Boer, perché credo che tutto ciò che sta succedendo appunto con l'allenatore dell'Inter è assurdo. Non esiste una società, se così possiamo chiamarla, che lascia il proprio tecnico in balia dei giornali, dei media, di qualsiasi cosa possa succedere. Soprattutto, io faccio un esempio, con tutte le cose del caso, come l'Inter, la Juventus dello scorso anno aveva un punto in più rispetto all'Inter di quest'anno, la società siede lì. Sì, però ragazzi, la differenza è in parte quella, in parte nel pregresso, nella struttura del club e della squadra stessa, cioè al di là di quella sconfitta che segnò il punto di ripartenza della Juve a Modena con il Sassuolo, c'erano dei leader che parlavano, c'era Buffon, c'era Bonucci, c'era Evra, c'era il senso di una squadra che esisteva. Adesso il senso di una squadra che esiste non ce l'hai, ma soprattutto hai il senso di una società che non esiste. Quindi qui si tratta di capire, va bene, confermiamo De Boer è il nostro uomo, come fece quel giorno, come disse quel giorno Silvio Berlusconi dopo che il Milan venne eliminato dalle Spagnoli il primo anno di Arrigo Sacchi, ancora ad ottobre in Coppa UEFA. Allora no, si va avanti con lui. Giocatori, aprite bene le orecchie, questo è l'allenatore, perché l'ho deciso io. O succede questo, oppure si cambia. Però chi deve decidere? Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per la convocazione. A lei. Riprendo un attimino quello che stanno dicendo Beccalossi prima. Cioè nel senso che se una squadra prende un tecnico e crede in un progetto del tecnico, bisogna che gli dia il tempo di lavorare, e questo è scontato. Il punto tempo è non che ce n'è. Diamo per scontato anche il tempo, non ce n'è per un club come l'Inter. Ok, non c'è tempo, però se questo è l'unico... Io ho visto quest'anno solo tre partite dell'Inter, nonostante sia interista, però ho visto il gioco. Cioè quelle tre partite, con la Juventus, col Bologna, ma anche ieri sera che ho visto un tempo col Torino, ho visto occasioni da gol. Io vedere giocare le squadre di Mazzarri, le squadre di Mancini, cioè mi addormentavo. Era una soprattutto Mazzarri, ma anche Mancini, era una cosa oscena, cioè non si guardavano, non si guardava giocare, sembrava che giocassero sempre contro il Real Madrid. Cioè, mentre qua si vede una squadra che ha personalità, quindi il tecnico secondo me sta se non altro cambiando un attimino la mentalità, la testa dei giocatori. Poi è chiaro che... Ma non lo so, guardi, io col Bologna tutto questo gioco non l'ho visto. Con la Juventus è stata una partita particolare, ieri sera c'è stata una reazione anche di nervi. Però io vorrei sentire sul punto come la pensa la penna d'oro di Repubblica, Maurizio Crosetti, mio amico. Buongiorno Carlo, ciao. Ciao Ma sì, la penso in realtà, la penso come te, non ho visto un granché, ho visto... dei buoni momenti dell'Inter contro la Juve, grazie anche alla scomparsa momentanea la medesima Juve dal campo quella sera. Comunque l'Inter giocò certamente molto bene, poi poco altro, ma poi il tempo, l'abbiamo detto tante volte, il tempo non c'è per cambiare una grande in pochi mesi, in poche settimane. Non vedo come lui insomma, possa riuscirci, sinceramente. Ma tu da che parte stai? Sei dell'idea di Pardo che dovrebbe essere comunque confermato e sostituito da una fantomatica società che ha sede in Cina, che ha un ex presidente ma esecutivo in Indonesia, che ha Ausilio che è un bravo direttore sportivo ma fa direttore sportivo, in Zanetti che è una grande bandiera, un grande uomo di calcio, però fa grosso modo lavoro di rappresentanza, quindi dovrebbe essere sostituito da questa fantomatica società, o sarebbe il caso di mettere qualcuno al vertice sulla poltrona di pelle, ti ricordi, di pelle umana, con il pelle ficus umana, la poltrona di pelle umana, no, con manca, il ficus di Fracchia manca sicuramente un super mega direttore galattico, eventualmente. Bravo. Anche Granduff figlio di Putte, anche eventualmente, cioè con tutte, sì, con tutte, sì, le cariche, sì, sì, sì. Ci fosse uno così, che però soprattutto oltre a essere gran figlio di Put fosse anche gran competente di calcio, conoscesse i meccanismi e soprattutto si prendesse la responsabilità di decidere, allora forse sarebbe anche più facile non limitarsi a guardare Bravo. Il dito che è De Boer, mentre la luna è l'Inter, no? Però sono tutti bei discorsi, in poche settimane non lo fai, ma se non rimettono completamente a posto la cosiddetta linea di comando dell'Inter, poi si eviterebbe forse anche di sbagliare scelta, perché il problema di De Boer non è se cacciarlo, il problema è che l'hanno preso in quella maniera, l'ha preso Tohir che era già di fatto dimissionario uscente, cioè ieri Tohir uscente conferma il più che mai uscente De Boer, non c'escono tutti, però alla scelto fine così da non lui. La rimetti, non la da metti. Lui. Scelto da lui, e anche adesso la gestione dell'emergenza più o meno acuta, aspetterebbe, pare, sempre a lui, no? Che già gestisce straordinario male, secondo me, perché tre anni quanti sono stati di gestione di Torino ordinaria sono stati abbastanza fallimentari, possiamo anche togliere l'abbastanza, figurarsi l'emergenza, cioè svolgere anche l'ordinaria amministrazione come capita quando cade un presidente del Consiglio. Senti Maurizio, stai in linea, poi allarghiamo un po' il discorso facendo un piccolo audio forum su alcune dichiarazioni di ieri relative ad altre squadre. Traffico. Tutti convocati. I love this game. Convocati. Allora, con noi Maurizio Crosetti, c'è anche Alessandro dalla provincia di Torino in linea, qui chiedo un attimo di pazienza, 800 24 00 24. Siete sempre convocati anche se noi siamo in trasferta, lo ripeto, a Cibus Tech a Parma, però non cambia nulla, tutti convocati sempre. Maurizio, ieri sera Juventus, per la Juventus ordinaria amministrazione, dopo la sconfitta di Milano, la Juventus ha lasciato 6 punti a Milano, però sembra che non ne voglia lasciare altri per strada. Ieri sera, nel segno del goleador Chiellini, Juventus che torna a vincere. Adesso il prossimo giro però propone qualcosa di leggermente più difficile e probante, e cioè Juventus-Napoli. Ne ha parlato Allegri. Secondo me è troppo presto per dire che è la partita dello scudetto, anche perché c'è la Roma che ha 2 punti. È una partita importante, le partite di girone andata sono importanti ma non decisive come la partita di ritorno. Continuo a pensare io almeno che la partita scudetto quest'anno non esista, nemmeno Juventus-Napoli cross. No, esisterebbe se si potesse giocare Juventus contro Juventus e una delle due decidesse dove andare, nel senso che clonando i giocatori, sì. L'anti-Juve è la Juve quando non fa la Juve, no? Per ora, anche se indubbiamente la crescita della Roma è qualcosa di sostanzioso, di ciccia lì, sotto i denti, non è soltanto, ma non solo perché Dzeko si è svegliato. Però No, ma guarda, su Dzeko è il mio pensiero, Maurizio. Dzeko è sempre stato non è un fuoriclasse, ma è un eccellente giocatore. Sì, anche quando l'anno scorso lo prendevano per un palo della luce e lo trattavano come tale. Sono d'accordo, ma non è nemmeno quello che ti porta lo scudetto da solo. No, assolutamente. Non c'è quel giocatore lì, non c'è più nel campionato italiano, non c'era nessuno il giocatore che ti porta lo scudetto da solo. Forse nemmeno Higuain, nel senso che per adesso anche lui sta cercando un po' di capire su che pianeta è atterrato, fa gli zompi come gli astronauti sulla Luna, ti ricordi? Che sembravano degli enormi bambinoni col pannolone, andavano al rallentatore. Lui, sì, tra l'altro, è fortissimo, però è così, cioè lui adesso muove i primi passi su questa Luna, e quando comincerà a capire bene, quando la Luna comincerà a capire bene Higuain e viceversa, beh, alla fine... Beh, a differenza del discorso, no Maurizio, ma a differenza del discorso De Boer, la Juventus in questo ha tempo, perché la Juventus gioca in un modo diverso rispetto al Napoli, e la Juventus ha tempo di aspettare che Higuain capisca se è atterrato sul mare della tranquillità o piuttosto in un altro angolo dell'oceano della Luna. Tempeste, l'altro era l'oceano delle tempeste, l'oceano delle tempeste, che peraltro riguarda altri club. Poi adesso parliamo di Higuain, non segna da 4 giornate, ma questo signore gol ne ha fatti subito gol, non su azione magari, ma tanto chi se ne frega, lui li capta i palloni, li manda in porta. Sì, ma ha fatto anche un po' di panchina, avercene i problemi così non può essere certamente un problema per la Juventus, ma la Juventus senti Maurizio, su Higuain hai sentito cosa ha detto Sarri a proposito della partita del weekend? Se non l'hai sentito te lo faccio sentire io. Fammi sentire, sì. Higuain è un ragazzo che a me ha fatto del bene, cioè nel senso ha fatto benissimo, è stato disponibile, e lo saluto come si saluta un figlio e ti ha fatto incazzare, dai. Hai capito? Lascia stare, perché quando c'è da entrare in una maniera un po' diversa, da dire delle cose in mezzo a tutti questi replicanti plastificati, finalmente uno sembra uscito dal calcio agli anni 70, un personaggio che ha sbagliato epoca, perché qui sembra un bizzarro con la tuta, no? Invece sì. No, questo è di enorme sostanza. È un mazzone 2.0, dai. A me piace tanto. Come immagine come modo di comunicare. Senti, sentiamo Alessandro che è dalla provincia di Torino. Poi ti faccio sentire un paio di altre cose. Alessandro, buongiorno, dica. Buongiorno a voi. Innanzitutto un saluto a Maurizio Crosetti, visto che io sono di Settimo Torinese e parlo di più di 30 anni fa, mi ricordo, io mi chiamo Monteverde di cognome, mio padre... Porca miseria, i cicli Monteverde, ma guarda che, sì, che carambata! Che carambata! Mi fa piacere che ti ricordi della mia famiglia. Io ero piccolo, ma mi ricordo di te che già scrivevi articoli all'epoca... ed eri molto apprezzato a 10 anni prendeva già voti alti nei temi, sì era già bravissimo allora e sono contento per la sua carriera, complimenti. Niente, essendo di Torino, tifoso Granata, deluso un po' amareggiato, perché la mia considerazione è questa: secondo me ieri sera ha dato una prova di l'ennesima prova di immaturità come squadra, perché ok, affrontavi l'Inter, ma una squadra completamente in confusione, con un allenatore in confusione, non puoi fare un tempo così molle e così arrendevole, devi aggredirli, se li mandi un attimino che li spaventi, porti a casa il risultato. Invece io ho visto solo il primo tempo, ho visto i primi 35 minuti, dopo il regalo di Hart mi sono messo a piangere, perché quella è un'uscita di un portiere di terza categoria, e Torino è andato... Ha un gran nome, prende anche un bello stipendio, però non mi sembra la scelta più riuscita del Torino di quest'anno, che pure di scelte riuscite ne ha fatte tantissime, perché al di là di tutto e del pessimismo e del malumore per la sconfitta, secondo me questa è una squadra giovane, di grande talento e con l'allenatore perfetto per gestire questa squadra. Ho definito Mihajlović-Toro, tra Mihajlović e questo Toro, matrimonio perfetto, e lo confermo nonostante la sconfitta ieri sera. Però ci sono stati ieri sera altri problemi, ragazzi, no? Non c'è stato solo Hart. Mihajlović c'era mal di panza, perciò doveva andare da 15 minuti, doveva andare al bagno, poi a fine quando è scappato, perché sennò l'avrebbe fatto in campo. Penso che non sarebbe stato un bello spettacolo. Abbiamo fatto lo stesso tutti noi in campo, ma farlo proprio in maniera sarebbe troppo, penso. Mi è piaciuto Cacarella, che cosa ti devo spiegare? Devo fare un disegno. Mazzo! Maurizio, questa non l'avevamo mai vista, L'avevamo vista forse in qualche corsa di ciclismo, ma c'è gente che ha perso Giri d'Italia. Charlie Gaul ha perso un Giro d'Italia per fare la pipì e gli scattarono in faccia, come si dice in gergo ciclistico. Però in campo, in campo sinceramente è più una metafora, no? Farsela addosso, eccetera, eccetera. Invece questa volta siamo oltre la metafora, è bellissimo tutto ciò. Non sarebbe stato un bello spettacolo, ha sottolineato Sinisa Mihajlović. Però sul Toro possiamo essere d'accordo. Ieri sera serata storta, però a me questo è un Torino che piace estremamente. Beh, una bella squadra, un grande attacco. Sono d'accordo, l'allenatore è quello giusto. C'è anche il lavoro di quell'altro allenatore, perché Ventura ha costruito molto bene in questi anni. È una squadra che ha ripreso a credere anche nel proprio sangue, no? A parte il primo tempo, ha ragione l'amico Settimese, ieri sera non era da Toro il primo tempo, ma normalmente quest'anno Toro, il Toro morde, attacca, è una squadra molto interessante, una delle migliori squadre. Poi ha questo Belotti, ragazzi, il Gallo, mamma mia, che cresta. Gallo è bravo tanto. Grazie Maurizio, alla prossima, ti abbraccio. A voi, ciao, anch'io. Ti abbraccio, anche da Settimo Torinese, ti abbraccio. Ci sentiamo subito dopo il GR, 800 24 0024 è il vostro contatto per telefonare. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. E noi qui da Cibus Tech di Parma, dove siamo in diretta oggi, riprendiamo dai convocati 800240024 in attesa di altri ospiti. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei. Che tempo c'è a Venezia? Oggi è una giornata spettacolare con Parma. Il sole. Oggi c'è il sole. Era ora, dopo qualche giorno di tristissima, anche a Milano, ma poi si vedeva che il cielo si stava aprendo. Esatto. Bene, parliamo del tempo, andiamo avanti con il tempo o parliamo di calcio? No, di calcio, Va bene, dica. Allora, io mi rifaccio la partita di ieri sera Torino-Inter. Sì. All'intervista che hanno fatto ad Handanovic, quando le hanno chiesto per quanto riguarda l'allenatore del Burro. E lui si è mantenuto tantissimo largo alla risposta, dove gli hanno chiesto: ma secondo lei può essere, non è questo? Cioè, lui ha dato una risposta, come parlavate anche ieri a tutti i convocati, che tutti i calciatori sono contro De Boer. Ma alla fine, secondo me, la colpa non è di De Boer, è della società e dei calciatori. Ma guardi, ieri sera non ho avuto sinceramente l'impressione che i giocatori fossero contro De Boer, per la reazione che hanno avuto, per... come si sono sbattuti, insomma, non ho avuto questa sensazione. Avevo anch'io questo sospetto, perché i giocatori sono i primi, no, a lasciare la barca che affonda quando sentono che il capitano è il comandante, mettiamola così, visto che stiamo facendo questa metafora, è in discussione. Ieri sera ho avuto un'impressione contraria. A me ha fatto invece più riflettere proprio su questo punto quanto ho sentito prima della gara interna dell'Inter, rovinosamente persa in campionato contro il Bologna, quanto aveva detto Miranda, e cioè alla domanda: ma come mai prendete così tanti gol? Lui ha risposto: ma con Mancini giocavamo un po' più indietro come linea difensiva, eravamo un po' più coperti, forse sarebbe il caso di tornare su quella strada. Quella dichiarazione prepartita mi aveva lasciato molto perplesso, meno di quanto lei sostiene a proposito della dichiarazione di ieri di Handanovic. Io ho avuto l'impressione invece che, ed è un segnale importante, che i giocatori stiano provando a stare con l'allenatore. Quanto poi dice lei a proposito del vuoto societario è ineccepibile ed è secondo me il vero argomento di discussione, ancor più dell'allenatore. Questa è la realtà. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamo da Milano e sono interista, chiaramente, no? Sì. Niente, io volevo dire una cosa. Mi sembra che ci sia un certo accanimento sulla nostra povera Inter. Faccio un esempio: il Milan batte la Juve 1-0, grande Milan arriva secondo in classifica dimenticandosi che hanno annullato regolare gol alla Juve, no? Poi perde 3-0 contro il Genoa e io vengo un fondo sulla rosa, non faccio il nome, no? Dove si dice dal tonfi si può risalire. Faccia il nome, mica. C'è una gazzetta dello Sport. Il fondo iniziale era... No, non sono omertoso, per l'amor del cielo. Il fondo dice dal tonfi si può risalire. Andiamo a prendere l'Inter, contro l'Atalanta perdiamo 2-1, dimenticandosi che all'ultimo minuto hanno annullato un gol regolare a Dicardi, del quale nessuno ha parlato, solamente Sky nel primo servizio ha fatto vedere il fallo eventuale di Dicardi, poi non si è più sentito niente, non ha più parlato niente. Ieri sera vinciamo 2-1, abbiamo fatto vedere che abbiamo sbagliato 14 gol, eppure tutti ci saltano addosso, tutti ci bastonano e compagnia bella. Scusatemi, non mi sembra che l'Inter sia stata bastonata oggi, non da parte nostra almeno, ma nemmeno dai giornali, tanto che siamo nella sua Parma e allora non può che essere la nostra prossima voce quella di Andrea Schianchi, che scrive, caro amico, sul giornale che lei ha citato e che ha analizzato come spesso la partita ai raggi X, sottolineando la prova di João Mario. Ciao Andrea. Ciao Carlo, un saluto agli ascoltatori. Tutto questo accanimento sull'Inter non è che riesco a vederlo, cioè, no, leggo la classifica. Mi sembra che siano i giocatori che si accaniscono sulla squadra, quindi francamente non vedo accanimento esterno. Anche perché basta guardare la classifica, il Milan mi sembra che sia un pochino più su dell'Inter, quindi non giusto grandissimo accanimento nei confronti degli altri. Secondo me c'è stata fin troppa pazienza nei confronti dell'Inter, perché quello che ha combinato questa società all'inizio della stagione, secondo me neanche in Serie D lo combinano, perché cambiare un allenatore a 4 giorni o 5 dall'inizio del campionato, francamente, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Soprattutto chiamandone uno che nulla sa della nostra realtà. Lascia stare la lingua, Babele, eccetera. Ne abbiamo parlato anche troppo. Chiamandone uno che non sa nulla della nostra realtà e poi chiamato da un presidente che ha il 30% delle azioni, mentre il 70%, cioè la proprietà, la maggioranza della proprietà, ce l'ha un altro. Il quale presidente sta solo aspettando di prendere la miglior buonuscita possibile, esatto, per levarsi di torno, esatto. E peraltro di calcio non sa tantissimo neanche lui, tanto per completare, per mettere la cornice a tutto questo quadro. Questo per spiegare che probabilmente, insomma, c'è un pochino di differenza tra i tonfi dell'Inter e il tonfo pur fragoroso del Milan contro il Genoa a Marassi, ma il fondo cui si riferiva radioascoltatore era di Luca Calamai e io lo condivido. Sì, sì. È vero che dai fondi si può, è vero che dai tonfi si può assolutamente risalire. Sono stati commessi degli errori, si sapeva anche che Milan non Montello, era perfetto, forse soprattutto da Montella. Anche da Montella, perché certamente anche smontare la fascia destra così, insomma, è stato un pochino azzardato. Rischioso. Sì. Però sono Andrea, cose che possono capitare. Andrea, siamo qui a Parma. Tu, da te parmigiano, voglio capire che cosa sta succedendo in città dopo che il Parma è tornato tra i professionisti. Guarda, sta succedendo in città che c'è una grandissima c'è un grandissimo entusiasmo, c'è una grandissima attesa. È stata fatta una squadra composta da nomi e giocatori importanti di Lega Pro, ma che hanno comunque un buon trascorso anche in Serie B. La squadra non sta andando benissimo a livello di gioco, anzi direi sta andando male a livello di gioco, però è a 3 punti dalla prima in classifica. Quindi tutto sommato è un eccellente segnale. Sì, i giochi sono assolutamente aperti. Il problema qual è, a mio avviso, che osservo le cose da fuori, ma diciamo il naso ce lo metto dentro perché conosco e la realtà e molti dei protagonisti. Il rischio è quello di giocare con questo spirito. Noi siamo il Parma, quindi vinciamo. Sì, certo. E questo te lo puoi permettere in Serie D, ma non te lo puoi permettere in Lega Pro. Certo, allora devi Apolloni, che tra l'altro è un amico, deve cercare assolutamente di far diventare questo gruppo una squadra, perché finché si rimane gruppo giochi un pochino, vai con l'orgoglio, vai sulla forza dei nervi. Diventare una squadra è più complicato, però io credo che loro abbiano assolutamente le potenzialità per riuscirci. È un campionato molto equilibrato, molto difficile, è il passaggio obbligato per tornare verso il paradiso. Non c'è dubbio. Un altro tuo amico, Arrigo Sacchi, che cosa dice di questo Milan, squadra tra le più giovani d'Europa, squadra estremamente interessante, su cui Montella, al di là della spazzolata presa a Marassi, sta lavorando benissimo, di questa nuova proprietà cinese, di questo nuovo corso, cosa ti ha detto in confessionale il tuo amico Arrigo Sacchi? In confessionale, guarda, te lo posso dire, mi dice che è molto curioso di questo progetto, a lui piace molto il fatto che siano giovani e che siano molto ci siano molti italiani. Sì. E questa è una cosa che sicuramente io credo possa fare bene al calcio di casa nostra. Montella è un allenatore che ha delle idee. Chiaramente deve essere supportato dalla società, mi sembra che sia ben supportato adesso da Galliani, sostanzialmente poi è quello che lo ha scelto. Ora bisogna vedere quando ci sarà questo benedetto o maledetto passaggio, ammesso che ci sia la fine di novembre come pare, insomma, e bisognerà vedere se cambiano degli equilibri. Io sostanzialmente credo che Montella stia facendo un ottimo lavoro, perché il materiale umano non è elevatissimo a livello qualitativo, però lui sta cercando di tirar fuori davvero tutto quello che hanno. Assolutamente. Secondo me quella di Niang, ad esempio, è una delle migliori stagioni che lui sta facendo. Sai, Andrea, hanno capito il trucco, li mandano al Genoa. Lui, e poi dopo li prendono indietro poi li prendono indietro quando l'anno dopo, quando hanno giocato comunque con continuità e hanno capito che male non sono, no? Io ti dico, Niang sta facendo bene, Suso sta facendo bene, Locatelli è una bella promessa che va seguita, protetta, ma a me quello che piace di Montella è soprattutto una cosa, che sta facendo le cose semplici. Cioè, cosa si dice quando si deve costruire una squadra? Bisogna cercare di mettere in campo sempre gli stessi 11, perché così imparano a conoscersi. Bravo. bravo, imparano i movimenti, imparano i difetti e i pregi dell'uno e dell'altro. Ma questo qui lo sappiamo io, te e anche l'allenatore dei Paperinos dell'Audace, che era la squadra dove giocavo io da bambino. Sì. Sì, allora, lo sa perfettamente anche Sarri, che quest'anno dovrebbe cambiare registro, ma l'anno scorso ha lavorato esattamente in questa maniera. Sì, adesso invece l'anno solo se si parla di turnover, cambiamento, ma il turnover lo faceva Cappello, l'ha inventato Cappello nel calcio italiano, ma perché c'aveva una quando squadra 50 che era una giocatori. Squadra di marziani. Cioè, se non hai un gruppo di marziani, il turnover non lo puoi mica fare. Al massimo ne potrei cambiare uno o due. Insomma. Bravo, ne cambi uno o due in maniera funzionale anche all'avversario, in maniera funzionale alla partita precedente, a quanto ti dice lo stato di forma. Ma uno o sì, due ma al turnover. Il turnover, secondo me, è una sciocchezza in valore assoluto. È una sciocchezza in valore assoluto. Puoi cambiare uno o due giocatori in partite ravvicinate, ma non diciamo stupidaggini. Il Milan non ha neanche le coppe, non aveva tutta questa esigenza di modificare quella fascia destra prima di una partita delicata come quella di Genova. Senti, voglio parlare per chiudere di un altro tuo amico, che tra l'altro conosce molto bene questa città, Parma, che qui è passato ad allenare, a mangiare, a divertirsi, a fare amicizia. A giocare prima ancora. Bravissimo, a giocare, partito da qui con il numero 11 e un fisico longilineo, giocava alla sinistra come si diceva un tempo, e si chiama Carlo Ancelotti. Quante chance ha di vincere con questo Bayern l'ennesima Champions League? E aggiungo, quante ne dai alla Juventus? Ma secondo me in termini qualitativi il Bayern è superiore alla Juventus. Io credo che il Bayern sia con Barcellona e Real Madrid la squadra più forte d'Europa, sono in tre, perché credo che il Manchester City debba fare ancora qualche passetto in avanti e quindi qualche miglioramento, può darsi che lo faccia in breve, però secondo me Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona sono superiori alle altre in questo momento. Il problema della Champions League è che tu devi arrivare in perfetta forma nel giorno della partita, e quindi questo non sempre capita. Succede che alle volte ti trovi questione di luna, di episodi, dai. E Carletto lo sa meglio di tutti. Esatto. Il problema è credo sia tutto lì. Dopodiché, secondo me, ha la possibilità di portarla a casa, anche perché ha una voglia incredibile di portarla a casa. L'ho sentito pochi giorni fa, ha veramente tanta voglia di vincere anche questa. Non è che ce ne sono tanti di allenatori che l'hanno vinta, praticamente dappertutto. Gli manca di andare a vincere. E poi non ci sono neanche tanti allenatori che hanno ricevono complimenti e attestati di stima così importanti dai loro calciatori. Vero. Io ho letto l'ultimo libro, cioè, sentire Ibrahimovic, Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo, Beckham che parlano così di un tuo ex allenatore, io ne ho sentiti francamente pochi, ecco. Così come ce ne sono stati pochi di Carlo Ancelotti, dai Andrea. Ce ne sono stati pochi di allenatori così empatici con i loro giocatori in qualunque squadra lui abbia attraversato. È vero. Grazie Andrea. È vero. Grazie. A te. Ti ciao, abbraccio. Carlo. Ciao Andrea Schianchi. Ciao. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Fabrizio. Dica. Grazie per la convocazione. Allora, tifoso dell'Inter, esatto, sostenitore di De Boer. Sostenitore di De Boer. Perché e io tanto che non vedo giocare bene l'Inter come sta giocando adesso. Cioè, io ho mai visto l'Inter imporre il gioco alla Juve, mai visto l'Inter a Roma avere il 65-3% possesso palla. Allora, questa secondo me è la strada che l'allenatore ha dato. Bisogna seguirlo. Logicamente non si può, penso, arrivare a questi risultati con i Nagatomo, i Santon. È una squadra nata quest'anno. Però Fabrizio, i Nagatomo, i Santon, siamo un po' semplicistici, perché guardiamo la campagna acquisti, sono arrivati João Mario, sono arrivati, vabbè, Gabigol devo ancora capire, deve ancora crescere moltissimo, è arrivato Banega, insomma sono arrivati comunque giocatori di un certo livello e di un certo spessore, tanto che io continuo a pensare che l'organico dell'Inter non sia distante da quello di Napoli a Roma. Un po' deficitari sulle fasce, un po' per gli anni, un po' per magari il livello dei giocatori, però non mi dispiace, io è da tempo che non vedo giocare l'Inter così, cioè, io piuttosto che vincere le partite 1-0 giocando come giocava Mazzari o Mancini, preferisco andare a Roma, prendere tre pere e giocarmi la partita, insomma, come il problema è, il problema è prendere le tre pere e avere in classifica punti 14, cioè ultimo posto della fascia sinistra della classifica. Il problema è quello, poi sarà questione di tempo, però ripeto, l'Inter di tempo, anche dopo i denari spesi e nonostante i nuovi proprietari cinesi, non ne ha moltissimo, ha bisogno di risultati che siano immediati. Torno a monte, il problema può non essere tanto De Boer quanto una società che non ha il famoso signore che siede sulla poltrona di pelle umana, come si diceva prima scherzando con Maurizio Crosetti. Nicola, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per la convocazione. Vorrei dire questo: ieri sera ero allo stadium e ho visto anche la Juve in occasione della partita Juve-Udinese. Ho visto ieri che con Marchisio il centrocampo ha acquistato, anche se un Marchisio ancora appena rientro, però ha acquistato più lucidità, gioco più pulito, e quindi con il trio Marchisio, Pjanic, Khedira c'è già più stabilità e quindi più sicurezza. Quindi ho visto una Juve molto molto su di tono, insomma, che ha avuto, non ho amico avuto mio, non è una grandissima sorpresa, Marchisio è un giocatore fondamentale per quel centrocampo. Infatti chiedevo questo. Io come juventino, parlando con amici in Pullman, dicevo, si parlava che forse di fare un fardello, lasciare magari in Coppa d'Africa, lasciare tra i Leoni le Minaia e Samoa, perché in effetti anche con Hernanes sono dei giocatori che hanno dato un rincalzo, però che credo che non siano da Juve, e quindi per puntare alla Champions credo che qualcosa vada fatto assolutamente, Marchisio... perché questi rincalzi non sono buoni giocatori, ma non da Juve, ecco. Non so cosa diciamo che possono essere buoni rincalzi da Juventus, certamente, però Marchese è un'altra storia. Facciamo un salto per chiudere in Inghilterra. Double rimette dentro di testa, arriva il vantaggio del West Ham all'undicesimo, ci pensa Sheku, Kouyaté, esplode l'Olympic Stadium avanti gli Hammers, una forza della natura. Michael Antonio Fernandez attacca il West Ham e trova il gol del 2-0, il ragazzo svizzero con origini portoghesi Fernandez, e 2-0 per il West Ham. William, Scodella, David Luiz, Cahill con il petto, la palla resta lì, Aspiliqueta, Cahill, è buono il gol del Chelsea ma forse è troppo tardi, 2-1, Gary Cahill. Lanciato da Otamendi, forse con un fallo, regola del vantaggio, però con lo svedese in area di rigore 1-1 con Maffeo, il tocco verso Herrera, arriva Mata e arriva l'1-0 per lo United, meritato per come la squadra di Mourinho ha iniziato questo secondo tempo. Dopo l'occasione per Pogba, segna Juan Mata. Beh, ieri sera c'è stata la Coppa di Lega e allora Mourinho si è preso la rivincita dopo la scoppola 4-0 contro il Chelsea, avrà ripreso colore, magari ha trovato anche un nuovo albergo, un appartamento dal quale riesce a procurarsi del cibo, a uscire a fare due passi. In ogni caso ha battuto il City 1-0, City che non vince da 6 gare, Guardiola non vince da 6 gare. Emanuele Corazzi, commentatore della Coppa di Lega inglese su Fox. Ciao. Ciao a tutti, buongiorno. Guarda, faccio una premessa. La premessa sta proprio nelle scelte di approccio di due allenatori a questa partita, perché Mourinho è andato praticamente con la formazione migliore possibile. Guardiola invece ha fatto moltissima rotation. E questo conta, cioè il risultato va letto anche sulla base di queste valutazioni, perché Mourinho con i migliori ha vinto anche faticando a creare gioco anche ieri, difendendosi, e il City quando trova una squadra che si chiude moltissimo stile, diciamo l'Atletico Madrid di Simeone, che ha fatto molto bene in Europa, sì. Fa molta fatica, è una squadra che continua a far fatica a verticalizzare. In più ieri Agüero è entrato a 20 minuti dalla fine, hanno giocato tantissimi ragazzini, quindi è un risultato che va visto. Sì, no, però è un risultato che va letto in controluce, però intanto era essenziale, molto più per lo United che non per il City, che sì, però ripeto, non vince da 6 gare, questa gara dopo le ultime pessime figure del Manchester United. Un'ultima cosa rapidissima, invece, uscito dalla Coppa di Lega Antonio Conte, che aveva festeggiato in maniera così calda, così bollente, tanto da meritarsi l'imbrotto dello stesso Mourinho, il 4-0 sullo United. Ha perso 2-1 con West Ham, gara nella quale si è tornati a vedere, dopo moltissimi anni, episodi di violenza all'interno dello stadio. Purtroppo i tifosi del West Ham sono sempre più problematici, perché io ero a Londra per l'ultima di Upton Park contro il Manchester United, e anche in quell'occasione ricorderete avevano tirato dei sassi contro il pullman del Manchester United, quindi rimangono una delle tifoserie peggiori, così come nella storia sono state una delle tifoserie peggiori da questo punto di vista. In più anche ai tempi anche i tifosi del Chelsea non avevano una grandissima reputazione, certo. Bollino rosso sui tifosi dello West Ham. Bollino rosso, hai ragione tu, Emanuele Corazzi, ti saluto, grazie, ci sentiamo presto. Ciao, grazie. Ciao, grazie Emanuele Corazzi, commentatore di Fox. Ciao anche a tutti voi, da Parma, con Giorgio De Luca, nostro autore. Poi ripeto la squadra, Giorgio De Luca, nostro autore, Davide Cioccia, Elena Ligios, Gianmarco Ferronato qui in regia, a Milano ci sono Andrea Roccabelli in regia, Alvise Falzone, insomma siamo una squadra al top, come direbbe Cruciani. Ciao ragazzi, a domani. Pigia rosso, devi pigia stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!